Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Terroristico al cuore di Londra ha provocato 4 vittime, 3 passanti e un agente, 40 feriti. Il killer, quarantenne, di cui ancora non sono state rese note le generalità, ha investito prima i passanti con un SUV sul ponte di Westminster, poi ha coltellato a morte un agente nel tentativo di entrare nel Parlamento prima di essere ucciso. Raid della polizia in corso a Birmingham. Dopo l'attacco di Londra sale l'allerta anche per Roma, dove sabato si celebrano i 60 anni dei trattati. Questa mattina riunione straordinaria del Comitato d'Analisi Strategica Antiterrorismo con Minniti. Una delle caratteristiche del terrorismo jihadista è che colpisce all'improvviso. Colpisce anche dopo dei momenti di pausa, dei momenti di particolare relax. Io parlo comunque di quello che si sente nel sentire comune, nel sentire collettivo, l'alternarsi dei problemi, l'alternarsi delle domande, dei quesiti, delle angosce. Ogni tanto viene interrotta questa sorta di ricorrenza fatale. I fatti di Londra sono fatti particolarmente gravi, anche da un punto di vista simbolico. Non voglio improvvisarmi analista di questa vicenda, avremo fra poco persone ben più titolate di me per fare un'analisi più approfondita, ma colpire quello che perlomeno, anche secondo, se vogliamo, un luogo comune, ma comunque comunemente condiviso, è la culla della democrazia, il Parlamento di Londra, ciò che immaginiamo di più lontano da tutte le limitazioni che noi, un po' per luogo comune, un po' per condizionamento, un po' per autoflagellamento, attribuiamo alle nostre istituzioni. Beh, in qualche maniera ci fa pensare, come se fossero arrivati al cuore proprio di quello che noi abbiamo di più sensibile. Il sistema, la metodologia è quella di molti altri attentati, ma ancora una volta radicalizzata. Un uomo solo, un uomo che potrebbe essere staccato da qualsiasi organizzazione, staccato da qualsiasi legame, un uomo che in sé potrebbe anche non aver avuto nessun tipo di istruzione militare, nessun tipo di armamento, armato soltanto di un coltello non casuale però, un coltello che ha già un valore simbolico, già lo hanno detto tutti i giornali, è un particolare coltello, è un coltello tattico, è un coltello militare, è lo stesso coltello che abbiamo visto usare dal jihadista John, il grande assassino, per sgozzare le sue vittime, l'ha più volte brandeggiato. Un coltello è stato più volte riportato alla memoria e all'immaginazione come oggetto simbolico, lo stesso coltello che vediamo appoggiato per terra sul lastricato di fronte al Parlamento di Londra, con un poliziotto lo tiene fermo con un piede mentre tiene il mitra puntato su una persona che è stata fermata dai suoi colleghi. Beh, tutto questo cosa vi fa pensare, cosa vi fa immaginare? Sentite già, anche per chi non vive proprio nella capitale d'Italia, ma noi che viviamo a Roma abbiamo una certa apprensione, sentiamo il sentore, abbiamo il sentore di una città che comunque è veramente in allarme. Mai come in questo momento abbiamo avuto la sensazione che è come se tutti si aspettassero qualcosa dovesse accadere. E voi avete una giornata normale come tutte le altre, questo vi fa riflettere, vi porta dei nuovi pensieri, o sono sempre gli stessi pensieri ricorrenti? 800 24 00 24, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Al termine della conferenza stavamo uscendo dalle porte del Parlamento, abbiamo sentito un forte rumore, era la macchina di questa persona che aveva sbattuto contro il muro di cinta del Parlamento, e poi è sceso a piedi ed è entrato dentro con due coltelli in mano, ma stava a 10 metri da noi. Abbiamo assistito alla parte finale perché è sceso a piedi, ha coltellato due poliziotti davanti a noi, e poi è arrivato un poliziotto in borghese con l'arma che gli ha intimato l'alt. Questa persona aveva completamente gli occhi sbarrati e con questi coltelli si avvicinava sempre di più, e gli hanno sparato 3 colpi, uno sulla gamba che l'ha piegato, poi 2 sullo stomaco, l'hanno steso del tutto. Ecco, se vogliamo stabilire un precedente che ci tocca personalmente, noi italiani, è la prima volta c'è una testimonianza così cruda ma così precisa di un testimone diretto che ha visto esattamente quello che è accaduto e l'ha descritto con pochi tratti, è molto efficace. Una persona con 2 coltelli insanguinati, accoltellato dalle guardie, poi le guardie, secondo un rigido protocollo messo a punto ed efficace, gli hanno intimato l'alto, gli hanno sparato le gambe e poi l'hanno ucciso, e quindi è finita, almeno per questo, per questa fase la storia. Devo dire che sono, non è che io mi sorprenda, sono ormai 35 anni che faccio questo mestiere, sono abituato a vedere davanti a me le telefonate delle persone che interagiscono quando io parlo, ma in quest'ultimo, ultimissima parte di questa stagione è cambiato abbastanza, c'è stata un'accelerazione, gli ultimi tre sms sono arrivati, anzi gli unici, una mia richiesta, ditemi le vostre impressioni. E premetto, l'sms, ho già detto, è una forma di feedback abbastanza particolare, le persone che hanno meno cose da dire spesso fanno prima mandare un sms che articolare una telefonata, chiamare, fare un pensiero, mandano un sms, la cosa più semplice, per esserci e sperando che io li legga. Uno è una bestemmia, è inutile che la rilegga, non so, non si capisce perché. L'altro dice: ho ucciso con il SUV, mica con il coltello. Ecco, uno che ha sentito dire qualcosa che è accaduto, nemmeno si è documentato, nemmeno il minimo di approfondimento, tanto per dire che io dico delle cazzate. E il terzo: Nicoletti, l'unico musulmano buono è quello morto, cosa aspettiamo a sterminarli tutti? Altro luogo comune, altra totale idiozia, non vuol dire assolutamente nulla. Ecco, questa è una reazione media di pancia di una parte dell'umanità che vive nella frenesia di poter esserci, poter partecipare. A tutti è permesso partecipare, a tutti è consentito, tutti hanno il diritto di partecipare, ma per partecipare bisogna avere degli argomenti, essere capaci di argomentare, ascoltare anche gli altri, prima di esprimere un proprio parere, ammesso che questi siano pareri. Michele, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, un piacere sentirla. Senta, io ragionavo più che altro su questa cosa. È vero che noi questa settimana avremo sicuramente una grave emergenza a Roma, nella capitale, per le infiltrazioni di Black Bloc durante queste manifestazioni che ci saranno. Per adesso non si dice, non è che è una certezza, però sì, molte volte esatto. Quando ci sono segnali così palesi, quando vedo ammassare mezzi antisommossa, vedo le strade completamente presidiate, certo. Qualcosa accadrà sicuramente, quindi hanno esatto. Informazioni per cui qualcosa accadrà. Però nel contempo io volevo far notare una cosa: la settimana prossima ci sarà la maratona di Roma. Certo, Roma. Lo so bene. E lì ci sono più di 10.000 atleti e 42 chilometri di strade da presidiare. Io sono anche impaurito proprio perché c'è stata già la maratona di Boston nel 2010, nel 2013, e c'è stato l'attentato che sappiamo benissimo. Quindi no, lei dice una cosa molto saggia, guardi, questo invece è l'aspetto che mi sorprende del feedback del pubblico. Lei lucidamente dice qualcosa che ancora nessun giornale ha avanzato, non perché bisogna fare, occorra fare profeti di sventura o essere quelli che fanno le Cassandra tutti, ma lei dice una cosa giustissima, ancora più del vertice, dei capi di Stato che verranno a Roma per la celebrazione dei trattati di Roma, che saranno tutti super blindati, super sicuri, avranno i loro servizi che già da settimane stanno mettendo in sicurezza il luogo dove saranno. La settimana dopo, esattamente il 2 aprile, che è una data che io ricordo perché è la giornata internazionale dell'autismo, ci sarà la maratona di Roma. Roma sarà blindata, ci saranno degli atleti che correranno tutta la giornata per la città. Saranno pieni di persone che staranno ai lati delle strade dove correrà la maratona, pronti a applaudire. Ci saranno migliaia di persone per le strade. Le strade saranno chiuse, il traffico sarà deviato. Ci sarà molta meno attenzione di quella che ci sarà comunque sabato. Lei dice una cosa giustissima. Non è che in questo momento si danno suggerimenti a nessuno, ma è un momento di riflessione. Alfredo Mantici, buongiorno. Buongiorno. Direttore della rivista geopolitica Lookout News, ex capo del Dipartimento Analisi del SISD. A caldo sulla riflessione del nostro ascoltatore, secondo lei ci saranno anche, diciamo, delle precauzioni equivalenti a quelle che si stanno mettendo in atto per sabato per la Maratona di Roma, che è un grande evento, per chi è romano lo so cosa significa. Sicuramente sì, sia la Questura che la Prefettura in occasione di eventi di questo genere si coordinano per mettere in campo tutte le forze possibili. Quindi sono sicurissimo, lo fanno per una partita di derby, figuriamoci se non lo fanno per la Maratona di Roma. Sono sicurissimo che ci stiano pensando e si stiano attrezzando. Purtroppo il gesto del pazzo isolato è praticamente imprevedibile e non controllabile. Io le rivolgo una domanda, le sembrerà fuori luogo, ma me la pone un ascoltatore, visto che lei comunque ha più elementi di quelli che possa avere io per dare una risposta. Chiede: perché gli attentatori vengono sempre uccisi invece di essere immobilizzati e interrogati? Gli avevano sparato alle gambe, perché finirlo? Magari avrebbe fornito informazioni importanti. Lei ha avuto modo di vedere o di avere elementi per dare una risposta? Con il valore può avere una risposta, un'ipotesi a questa domanda? In caso di attentatore in azione, il compito, le regole di ingaggio della polizia non prevedono tentativi di immobilizzazione per poi poterlo interrogare. Cioè, ma lo scopo primario è metterlo in condizioni di non nuocere. In condizioni di non nuocere. E quindi si spara al bersaglio più facile, non è che si perde tempo. Si spara al bersaglio più grosso, e può essere anche un caso che l'abbiano preso alla gamba per primo, perché secondo me miravano all'addome. Anche perché aveva già accoltellato due colleghi loro, non era proprio uno scherzo. Ecco, vediamo invece, rifacciamo un quadro un po' completo. Lei vede delle fattispecie particolari in quest'ultimo attentato, o è semplicemente la fotocopia, lo svolgersi di un modello che, di cui abbiamo già discusso molte volte, che abbiamo già visto in azione? Guardi, è un modello che in Inghilterra si è già visto nel 2013, quando due nigeriani già cattolici e poi convertitisi all'Islam hanno ucciso un giovane soldato a Woolwich, un quartiere di Londra, e ai cittadini che li guardavano inorriditi hanno detto con molta calma: tutti i giorni i cristiani uccidono dei musulmani, se non la smettete noi continuiamo. Questa è la sintesi del messaggio, ed è un messaggio che arriva a tutte le comunità del mondo, ed è un messaggio che si amplifica in un momento in cui quello che io ho definito un faro di luce per gli estremisti musulmani, che è l'ISIS, si trova in difficoltà enormi sia in Siria che in Iraq, e questo suscita sentimenti di reazione, li suscita in persone che non necessariamente sono organizzate, come i due nigeriani o come questo sconosciuto che ha agito ieri a Londra, forse veniva da Birmingham. È così, è purtroppo. Quindi l'ipotesi che fa lei, Mandice, cioè che non ci sia una così capillare organizzazione militare che fa partire i combattenti, insomma, no, è che a un certo punto la sconfitta militare suscita una reazione. Ma si alza una mattina. C'è il messaggio che prima di morire lanciò il capo della propaganda e dei servizi segreti dell'ISI, Al-Adnani, che disse: anche se non sapete fare un ordigno esplosivo, prendete un coltello e uscite di casa. Questo è il va e uccidi che l'ISIS ha diffuso fin dal 2014. Questo comunque è diciamo un'operazione suicida, sapeva benissimo che andava incontro alla morte. Ma loro poi sono convinti di andare in paradiso, questo è il problema. Quindi c'è un'escalation, non è un deterrente. Comunque c'è un'escalation, perché mentre per procurarsi una cintura esplosiva, per saperla costruire, mettersela addosso, organizzarsi, richiede comunque un minimo di organizzazione strategica. Chiunque può prendere un'automobile e comperarsi in un qualsiasi negozio. Ce n'è uno alla fermata di Ottaviano qui a Roma che vende esattamente quei tipi di coltello, vende attrezzature per militari ma anche per appassionati di montagna, di caccia e via dicendo. Significa già mettersi addosso una divisa, comprare quel coltello, usare quel tipo di coltello che già è stato ormai proclamato in tutti i giornali come l'arma simbolo diciamo della rivolta. Significa già appartenere a un esercito che in realtà non ha ranghi, non ha gerarchie. Esatto, è un esercito tra virgolette anarchico, che funziona sul modello dell'anarco-insurrezionalismo. Una persona o un piccolo gruppo, sulla base delle indicazioni propagandistiche che vengono dalla centrale e che si trovano sul web, si attrezza e procede autonoma ad applicare quelle direttive. Questo è il meccanismo. Tenga presente che ieri abbiamo celebrato l'anno dagli attentati in Belgio di Zaventem e di Molbeek, e quello è stato l'ultimo attentato tra virgolette terroristico tradizionale. Dopo ce ne sono stati in Europa altri 10, fatti tutti con i camion e i coltelli o le accette. Come era stato detto praticamente? Ci fermiamo, ci fermiamo, Ci fermiamo un istante, Mantici, prendiamo un attimo fiato perché ho varie domande da farle, perché anche i particolari sono molto importanti e poi le persone giusto si facciano una cultura, abbiano un quadro completo, corretto, se no mandano gli sms e non hanno nemmeno capito di cosa stiamo parlando. Allora, dove temete che ci siano possibili attentati? Come vi state in qualche maniera organizzando? Prendete le precauzioni quotidiane, la vostra vita è cambiata, comunque vi ritenete soltanto degli spettatori. Qualunque cosa accada fuori dalla vostra porta non vi riguarda. 800240024. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo raccogliendo alcune impressioni del nostro pubblico su quella che è una situazione d'emergenza che esplode ogni volta che si ha la notizia di un grave attentato a matrice jihadista. In questo caso stiamo parlando di quello al Parlamento di Londra. Andrea, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Senta, l'intervento è semplice, l'analisi è che la maggior parte degli attentatori, Francia, Inghilterra, Spagna, eccetera, abbiamo visto che sono di seconda o terza generazione, musulmani di seconda e terza generazione. La Fallaci 25-30 anni scriveva molto chiaramente di questo scontro di civiltà, di come i musulmani non siano integrabili, perciò anche quelli che sembrano moderati sono semplicemente in sonno, sono lì ad aspettare l'ordine. Beh, ce ne stanno tanti in Inghilterra i musulmani, non è che sì, tutti sì, vanno in giro con i coltelli. Certo, e in Europa. L'ondata di immigrazione è sicuramente un progetto, perché non c'è altra spiegazione, perché come lo sapeva la Fallaci, lo sapevano anche i nostri politici, i politici di tutto il mondo, e evidentemente c'è una convenienza, c'era e c'è una convenienza affinché, e lo vediamo che le ONG li vanno a prendere sulle coste della Libia. Beh, adesso lei sta facendo un'analisi, andiamo al punto di oggi. Sì, ok, questo è il suo punto di vista, la Fallaci ha detto tante cose. Sì, cose giuste e anche tante cazzate, perché poi io non è che ho le icone sacre dei mostri del giornalismo. Ha evidenziato che addirittura il punto chiave è che siamo noi a doverci integrare, perché a 300.000 all'anno in Italia. Ma anche Welbeck ha scritto dei bellissimi libri su questa cosa qui, in cui dice che praticamente noi, perché i musulmani andranno ai governi. Vabbè, me ne farò una ragione. Vabbè, a me ci sia un imam o un prete, non è che mi cambia molto la vita, lo dico sinceramente, vorrei essere libero da entrambi se potessi. Comunque, questo è il suo punto di vista, non mi ha risposto alla mia domanda, come vi state organizzando, tutti analisti. Ti ha parlato Andrea? Ha parlato Roberto? Sì, buongiorno, Roberto. Buongiorno a tutti. Sì. Buongiorno a tutti. Volevo dire una cosa. Tutti questi attentatori, Francia, Londra, tutti conosciuti ai servizi, perché su come per esempio fa l'Italia, almeno da quello che ci dicono, non vengono o espulsi o controllati, o cioè sono tutte persone conosciute. Questa è una domanda che rivolgiamo subito a Alfredo Mantici, ricordo direttore della rivista geopolitica Lookout News e ex capo dipartimenti analisi del SISDE. Sì, tutti, la maggior parte delle persone che poi vengono prese, arrestate, uccise, che compiono questi attentati, erano tutti già segnalati come persone pericolose. Corrisponde alla realtà, Mantici? Come mai? Se sono pericolose sono a piede libero, ecco, questo è la domanda che fa l'ascoltatore. Allora, qui stiamo parlando di stati di diritto, certo, di diritto liberale nella gran parte, nelle quali non esistono ipotesi di tipo Guantanamo. Cioè non ci sono che i campi di prigionia. Guantanamo? Guantanamo nell'America del politically correct, e che Obama aveva promesso di chiudere fin dalla prima campagna elettorale, Guantanamo è un campo di concentramento in cui sono concentrati terroristi catturati in massima parte in Afghanistan e in Iraq, dei quali non si sa che fare, perché non esiste un tribunale o un complesso di regole che ci consentano di condannarli a qualcosa. Sono in un limbo in cui nessuno sa che fare. Sono in un limbo perché se io sono un terrorista che fa un attentato in Afghanistan, non posso essere processato in Italia per quell'attentato, a meno che non ci siano vittime italiane. Invece a Guantanamo c'è anche il terrorista che ha fatto l'attentato in Afghanistan e ha colpito solo i locali. E tutto questo si scontra con un sistema di diritti consolidati secondo i quali io devo avere un processo per un fatto criminale, devo essere sì tenuto sotto controllo. E se esiste la possibilità, come fa l'Italia, che ha inserito nel codice penale anche il reato di reclutamento a fini di terrorismo all'estero per colpire i foreign fighters, e questi vengono o arrestati o espulsi. Qualcosa bisogna fare, ma bisogna fare le leggi, perché noi viviamo in un sistema di leggi. In Europa una Guantanamo non è concepibile in questo momento. C'è anche a dire ci rendiamo conto, anzi, che lo Stato di diritto è qualcosa che consideriamo il punto più alto della nostra civilizzazione, ma in realtà è materiale umano che scotta. Cosa se ne fanno? Sanno già benissimo che non potrebbero comunque in nessuna maniera agire sui loro strumenti giuridici, perché non ci sono le leggi, non ci sono i trattati internazionali. Allora, facciamo quale potrebbe essere la soluzione? Purtroppo poi nei tempi radiofonici si mettono insieme tante cose e non si fanno dei sillogismi. Ma questo è un punto importante. Però è un punto importante, lo sai perché, Matici? Il punto importante è questo. Per tutti stanno dicendo le cose più comuni. La Boldrini regalerà un SUV a ogni immigrato. Lei mi dica cosa stanno facendo in Italia di concreto? E in generale, allora, qual è la sua posizione rispetto a questa difficoltà del non andare contro le nostre regole basilari, di fare un grande campo di prigionia di tutti i musulmani, come si auspicherebbe la gente? La mia posizione è quella che poi si viene sviluppata sul terreno operativo dai servizi intelligenti di tutto il mondo, non dico di intelligence ma intelligenti. Abbiamo capito. Quando si individua una persona pericolosa e non si hanno strumenti, perché ancora non sta costruendo la bomba, perché ancora non fa proselitismo in funzione di un attentato, insomma non ho uno strumento legale per portarlo in tribunale, lo tengo sotto controllo. Se non posso, per carenza di uomini, tenerlo sotto controllo, infiltro con una persona fidata, con un agente, il suo ambiente e lo tengo sotto controllo costantemente. È uno sforzo durissimo, ripeto, gli inglesi lo hanno sviluppato dagli attentati del 2005 e fino a oggi. Tuttora in Inghilterra non c'è stato un attentato di terrorismo organizzato, ci sono state due azioni spontanee di tre criminali che hanno deciso di uccidere, ma non c'è stato l'attentato come quello alla metropolitana e ai bus di Londra del luglio del 2005. Perché? Non c'è stato nemmeno lo scatenamento dei cani sciolti come in questo caso. No, ancora gli inglesi che cosa hanno fatto? Perché sono un popolo di mercanti, protestanti e pragmatici. Hanno assunto nel servizio di sicurezza MI5 decine di giovani inglesi col passaporto inglese di origini pakistane, arabe, irachene, li hanno assunti e li hanno spediti in tutte le aree di potenziale pericolo. Questo è il vero senso del mediatore culturale, che si dice. In questo caso sono poliziotti, ma come nei film, io sono appassionato ai telefilm polizieschi, c'è sempre il poliziotto che comunque entra nella parte più difficile della città, nel ghetto della città, e riconosce i suoi ex compagni magari di teppismo, e è quello che ci può parlare. No, loro hanno fatto un passo successivo, gli hanno tolto la tessera da poliziotto, la tessera del servizio, e gli hanno detto: cresci là dentro. Muoviti là dentro, fatti assumere da una macelleria islamica. Ma sono come poliziotti al di fuori, che lavorano al di fuori del corpo, però sono sempre dipendenti dalla polizia. Sono gli infiltrati. Ah, infiltrati. Non meglio della polizia, perché non hanno l'obbligo. Cioè, un lavoro di intelligence, ma gli inglesi in questi sono stati sempre maestri. Un lavoro di intelligence intenso. Esatto, loro hanno, c'era la direttrice, dopo gli attentati, la direttrice del servizio di sicurezza inglese, Eliza Manningham Buller, andò da Tony Blair e gli disse: signor primo ministro, io le ricordo che lei in termini di sicurezza avrà quello per cui è disposto a pagare. Gli hanno decuplicato il budget annuale e, ripeto, a parte l'incidente di ieri, ma episodi di terrorismo, bombarolo, dinamitardo come quelli del 2005 non si sono più verificati. Non è perché quello che ha agito ieri non fosse disposto a usare una bomba, è che non sarebbe mai riuscito a creare un'organizzazione strutturata intorno alla pianificazione di un attentato, perché i servizi ne avrebbero avuto notizia, come ne hanno avuto notizia in questi 12 anni. Ecco, nonostante questa attività, però è chiaro, per quanto possono essere delle maglie strette, anche quella, ma diciamo, non possono prendere i pesciolini individualisti. È la cosa però complicata da gestire, che anche il pesciolino individualista, se si mette al volante di un SUV e si compra un coltello. Ecco, sul coltello posso fare una domanda, ma esiste veramente questo portato simbolico, quasi liturgico, di quel tipo di coltello? Che coltello è? Guardi, io non ho notizie su un particolare coltello. Perché adesso è uscita questa cosa, hanno messo le foto, hanno fatto vedere un proclama dell'ISIS in cui... Questo io non l'ho visto, forse a me sembra un normale coltello tattico, quello in dotazione alle forze armate americane, sinceramente. Esatto, oppure il coltello da cucina. Ricordiamoci che l'intifada dei coltelli è un copyright palestinese. Sono loro che, quando la morsa del servizio di sicurezza israeliano Shin Bet hanno impedito di organizzare qualsiasi attentato in territorio israeliano, su ordine di Gaza, su ordine di Hamas, sono usciti di casa o col coltello oppure con la macchina, hanno cominciato a mettere sotto le persone. Questo è successo già dal 2014. In quel caso non occorre nessuna organizzazione, apre il coltello della cucina, il cassetto della cucina, prende tra le forchette un coltello e va. Appunto, non esiste neanche il porto d'armi per i coltelli da cucina. 800240024, ci fermiamo soltanto un istante. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. Lo dico soltanto per fare analisi ad alta voce di quella che è una trasmissione radiofonica. Do strumenti anche a chi mi ascolta per aiutare a costruire sempre meglio un percorso di riflessione comune. Esiste ormai uno spartiacque fra le persone che intervengono al telefono e portano comunque, nella differenza delle loro opinioni, nella divergenza, ci può essere tante volte, un contributo. E quelli continuano a mandare sms a vanvera, come se parlassero di un'altra cosa, come se fosse un altro programma. Lo capite che è una cultura diffusa in tutta la società islamica, li vogliamo mandare fuori, dobbiamo ammazzare tutti, buonista, infame, vai con la Boldrini, che è una lettura che priva di ogni articolazione. Non sono un buonista, non sono una persona con gli occhi fasciati. Io cerco persone che sappiano più di me, che abbiano degli elementi di analisi maturati attraverso una professione, come in questo caso Mantici. Faccio domande, la mia curiosità ve la porto in diretta, domando a Mantici cose che io non so. E non sapendole io, cerco di fare in qualche maniera che le sappiate anche voi. Filippo, da Novara. Da Monza, buongiorno. Ah, da Monza, scusi. Allora, Filippo, no, c'è un altro Filippo da Novara, comunque lei è arrivato prima. Tutti Filippo. Gli è saltato addosso. Va bene, dai, Filippo da Monza. Io volevo rispondere alla domanda di prima, come si organizza la gente comune. Insomma. Ecco, bravo, questo finalmente è qualcuno che va a tema poi. Tramite la mia esperienza è quella che io... francamente non mi organizzo, nel senso che non è possibile, cioè è chiaro che ognuno di noi tutte le volte che di questi tempi si trova in una manifestazione, in un assembramento di persone più o meno numeroso, ci pensa, no? Certo, andare a spasso sabato per il tridente del centro di Roma forse magari è una delle attività meno consigliabili, diciamo la verità. Esatto, però non si può, cioè diventa una battaglia di valori, no? Cioè tramite il fatto che io continuo a fare la mia vita affermo i miei di valori, che sono secondo me quelli positivi. È una battaglia di libertà che bisogna fare e non bisogna lasciarsi intimorire o sconfiggere, anche perché Cioè, non è possibile chiaramente prevedere dove ci sarà il prossimo attentato, eccetera. Per cui... C'è anche da dire che abitare a Monza in questo caso ci si sente un pochino più tutelati rispetto che abitare di fronte ai palazzi delle istituzioni. Ma non lo so, che... guarda che noi sabato abbiamo 1 milione di persone per il Papa, per cui siamo abbastanza in tensione in questa Però una cosa mi domando, mi dica... In queste circostanze, giusto, la vita deve continuare tutto, ma è proprio importante che ci siano queste celebrazioni di tonnellate di capi di Stato che vanno a Roma proprio in una situazione di tensione, che il Papa se ne vada a Monza e raduni, non lo so, non voglio dire che debba cambiare le abitudini della vita, però è come prestare in questo momento il fianco, avere anche maggiore angoscia o avere anche maggiori obiettivi, però questa è una mia banalissima e forse detestabile deduzione. Giuseppe da Venezia. Giuseppe, allora sì, Filippo, Giuseppe, ecco Giuseppe. Sì, Giuseppe, sono qua, sono qua, avevo la voce. Allora, da Venezia, buongiorno intanto. Dunque, la città dove vivo, lei sa, Nicoletti, che per secoli ha dato ospitalità a diversi popoli, armeni, turchi, sono venuti qua un po' di tutto, no? Sì. Tempo fa c'è stato un convegno al Palazzo Ducale dove si valutava l'ipotesi, teorica sempre e comunque, di dove potesse essere un obiettivo abbastanza facile da colpire col terrorismo qui a Venezia. Anche allora, simbolico, perché è una città d'arte, tutto il mondo se ne accorgerebbe, certo. Esatto, però hanno scartato a priori la piazza San Marco, il ponte di Rialto, la stazione, perché hanno detto è molto più facile, è molto più logico colpire un vaporetto pieno di persone dove non esistono controlli, perché lei sa, entrano tutti, trolli, valise, non ci sono metal detector, farsi esplodere e provocare un disastro che poi è anche difficile da sistemare, perché se prende fuoco, se la gente comincia a bruciare, cosa fa? O si butta in acqua, brucia, queste sono le teorie. Probabilmente prendendo quindi anche lei dice, lo studio che è stato fatto, che Venezia come obiettivo sarebbe un buon obiettivo, ma non tanto per la parte monumentale, ma ci sono i vaporetti, ma anche sull'autobus è la stessa cosa, un vaporetto è come un autobus. Monti adesso sul 30 barrato all'altezza di Piazza Venezia, se vuole essere sardina è questo, è come un vaporetto. Sì, lì sarebbe proprio un valore simbolico, sarebbe il vaporetto in fiamme in mezzo al Canal Grande, sarebbero immagini che segnerebbero il mondo. Giusto, però non diamo troppi suggerimenti a chi già sembra avere sufficiente fantasia. Filippo da Novara, l'ultimo Filippo. Sì, buongiorno Nicoletti. Eccolo. Io voglio portare la mia esperienza quando sono stato a Londra, dopo gli attentati alla metropolitana, e devo dire che ho visto pochissima polizia in divisa. Cioè, a differenza di Napoli, che ero stato qualche mese prima, giravo le camionette dei militari sul lungomare, io a Londra ho visto pochissima polizia in divisa. C'era, perché comunque i controlli c'erano anche in aeroporto, rigidissimi, però io per strada, a parte qualche poliziotto, non ho mai visto il militare in divisa col mitra. Cioè non ti come nelle metropolitane in Italia, che ci sono soldati col mitragliatore abbracciato che stanno lì a gestire il traffico delle vecchiette, però degli studenti. Metro, in via vai di militari non l'ho mai visto. Allora, fermiamoci un attimo. Alfredo Mantici. Ricordo direttore Lookout News, una rivista geopolitica, ex capo del Dipartimento Analisi del Siste. Partiamo da quest'ultima telefonata. L'impatto emotivo e visivo delle forze dell'ordine che presidiano, come viene secondo lei amministrato e distribuito in questi casi? Qual è la forma migliore? Allora, i due esempi, Napoli e Londra, sono molto calzanti. A Napoli la presenza di forze dell'ordine o militari sul territorio serve anche come forma di deterrenza per una microcriminalità invasiva che lavora H24 sulla strada. A Londra questo problema non esiste. Come le ho detto, gli inglesi puntano l'80% delle loro energie sulla prevenzione, sull'infiltrazione e sull'attività di security all'interno delle comunità a rischio. E lo fanno con una quantità e qualità di sforzi che è veramente sconosciuta nel resto d'Europa. La presenza delle forze dell'ordine e dei militari per le strade ha sicuramente un effetto dico una tranquillizzante per i cittadini, terapeutico, certo, a livello sociale ci fa stare più tranquilli. Ma il terrorista non cambia, non cambia nulla, ecco. Il terrorista volta l'angolo, ricordiamoci che un terrorista colpisce chi vuole, quando vuole e dove vuole. Anche perché il poliziotto è stato colpito, è accoltellato, armato di fronte all'obiettivo più strategico di tutta Londra. Ma il terrorista, se vuole mettere una bomba a Piazza Venezia, trova la polizia a Piazza Venezia, volta e va a Piazza San Marco, ha fatto la stessa cosa, certo, ha ottenuto lo stesso effetto. E anche il soldato con il mitragliatore, del vaporetto è perfetto, cioè, giusto, perché certo, io mi metto sul vaporetto e ho colpito Venezia, ho colpito l'Italia, ho colpito l'Europa. Quindi poi ci pensiamo noi giornalisti a trasformarli ogni volta, a dargli enfasi successiva, colpita l'Europa, l'ISIS ci sta attaccando, più ne ha più ne certo, meno. L'importante è una foto simbolica che si veda la città ferita e le vittime, esatto, e si capisca, sì, sì. Esatto, quindi io insisto, ed è quello che spero e sono sicuro si sta facendo per sabato, si sta lavorando sul piano della prevenzione informativa, si deve sapere quando i Black Bloc saranno già in piazza, già sarà una parziale sconfitta della prevenzione, perché quelli in piazza non ci dovrebbero arrivare. È difficile intercettarli proprio mentre arrivano a Roma, che non credo vengano tutti da Roma, visto che cioè, questa cosa sembra ineluttabile. Si vedrà da qualche parte masse di persone, anche se non vestite di nero, si vestiranno all'ultimo momento di nero per essere Black Bloc a tutti gli effetti. Il Black Bloc deve essere intercettato, deve essere conosciuto, bisogna conoscerne chi è, le intenzioni, dove vuole andare, e dove vuole andare bisogna creare una struttura di protezione per non farcelo andare. All'impronta. La ringrazio Alfredo Mantici, grazie agli ascoltatori, quelli saggi che ci hanno aiutato a capire qualcosa di più. Ci sentiamo domani.